Avevamo detto la scorsa volta che il grande richiamo, Tzedakah, il richiamo, la preghiera, Bekol Gadol, con una grande voce, fa sì che si fa risvegliare da parte di HaKadosh Baruch Hu l'apertura, diciamo così, da parte di un livello molto più elevato. E questo va capito, perché HaKadosh Baruch Hu ha bisogno che di essere chiamato in una grande voce per essere risvegliato di più. Che differenza fa per lui la grande voce o la Con la piccola minuta. voce? La voce normale. Allora approfondiamo un pochino. Vehineh tam vesibata davar. La motivazione per la quale Shaliedei HaTzedakah Bekol Gadol Meorerim si risveglia attraverso la grande voce. Et bechinat pnimit veatzmut Or Einsof Baruch Hu. Un aspetto interiore dell'essenza di HaKadosh Baruch Hu, della sua luce infinita. Perché, come dicevamo, è poco comprensibile di Lechaurah e non muvan. Non si capisce tochen inyan zeh, il contenuto di questo concetto, il significato. Dehalo legabei HaKadosh Baruch Hu hakol shavin. Tutto è uguale dinanzi ad HaKadosh Baruch Hu. E quindi, ve eize hevdel, che differenza c'è? I mitpallel bellachash, se uno prega a bassa voce, o bekol, o se prega ad alta voce. Che differenza fa? Ma hu hayitron de kol gadol, e qual è effettivamente il merito, il vantaggio della grande voce? Aloha ikari a tefilah. Non è la cosa più importante forse la tefilah stessa? Perché c'è importanza evidentemente anche si dà importanza anche al tono e al volume. Acheinyan hu dei anotenet. Il Rebbe Rashab spiega, certo, proprio perché la tefilah è importante. Cosa è tefilah? Tefilah vuol dire, adesso vediamo, se io c'è i cari a tefilah, visto che la cosa più importante qui è la tefilah, infatti. Utfilah inyana, e il concetto più importante di tefilah cos'è? Ichud vehit kashrut, unione e legame. La tefilah rappresenta il momento in cui ci si unisce e ci si lega ad HaKadosh Baruch Hu. Attraverso la tefilah la neshama si lega con il divino. Veush al yedei ha tefilah hi hitkashrut ha neshama ba elokut. Appunto, in emitam ze, proprio per questo motivo qua atzmo, tzricha liot tfilato bekol gadol. Per questo motivo la sua tefilah deve essere con una grande voce, perché la grande voce è indicativa di qualche cosa, non che c'è importanza nella voce. Ma Sottolinea. la voce indica, cosa sottolinea la voce? Alitorerut levavò. La voce, la persona che prega con grande voce, questa è un'indicazione che il suo cuore è risvegliato. È risvegliato, bit kashrutò la Hashem be'emet. È risvegliato verso un legame con HaKadosh Baruch Hu. Be'emet. Be'emet vuol dire autenticamente. Be'emet, in verità. E qui dice una frase molto importante. Cosa significa verità? Emet hu, come si sa se una cosa è vera? Ma shemitchilato ve'atzofo hu bekav echad yashar. Verità vuol dire ciò che dall'inizio alla fine segue la stessa linea. Non va a destra, a sinistra, sopra, sotto. Quello che è vero dall'inizio fino alla fine. Quindi, cosa significa? Quando c'è qualcosa che si rivela, se è vero, si rivela completamente. Non a metà o a un quarto e così via, a pezzi. Dehineh kol hitgalut hu rak chelek yadua mimah shebeprimyuto ha'nelam. Ogni cosa che si rivela, ogni manifestazione, manifesta solamente una parte della cosa, non per intero. Nel sentimento, nel legame di una persona con un'altra, eccetera. Vignan ha'emet hu, ma quando una cosa è davvero con tutta l'autenticità, con tutta la verità, allora significa che la manifestazione è per intero. Masha pnimiyut ha'ne'elemet mitgala bechol ma'uto. Quando una cosa è così autentica e vera, significa che la parte interna si manifesta proprio per intero, così come è nel suo stato più essenziale, che Moshe hu b'mauto atzmi. E allora, quando una cosa è molto sentita, profondamente sentita, veliyoce itgalut ba bitragshut o mekalevu pnimyuto, quando una rivelazione si esprime, una manifestazione di sentimento si esprime con profondo sentimento, dal profondo, dall'interno del cuore, allora è automatico che viene con una grande voce, cioè va fino alla fine. Non che tu dici, ok, qui bisogna alzare la voce, ok, alziamo il volume. No, no. La grande voce è quella che è automatica. La forza interiore viene di suo, senza pensare. Viene di suo senza pensare, bravo, perché è una espressione di uno stato d'animo. Quindi non è che serva a Hashem, ma è il segnale, diciamo, sul piano terreno, sul piano, e per chi prega, sul piano nostro, perché si capisce che così uno ha. Allora, questa è la prima fase, che prima di tutto, come dici tu, è un segnale per un segnale, insomma, è una manifestazione, che, una manifestazione che dimostra quello che sta succedendo, o quello che sta succedendo nella persona. Però dall'altra parte abbiamo detto che questo risveglia sopra. Allora vediamo. Perché si percepisce la maggior forza e non esatto. La profondità. Quando uno è gioioso, cioè più la gioia è grande, sì, più strilla. E uno che capita, E se uno è depresso, la tfila sua è bassa. No. Bravo. E questo ha un effetto in alto. Ora vediamo nel prossimo paragrafo. Veita bazoar, c'è scritto nel Zoar, de ruach, letteralmente vuol dire lo spirito. Aite ruach ve amshich ruach, fa portare e attrarre un ulteriore spirito. Cosa vuol dire? Vuol dire il modo in cui ci si pone qui è lo stesso modo che viene espresso dall'alto verso di noi. Sempre per quella rispondenza che diciamo sempre. Esattamente. Dell'io, Ceseu, Colafnimiu, ce l'ho, visto che la persona si esprime in quel caso con tutto il suo profondo sentimento interiore. Allora anche dall'alto lui fa attrarre, diciamo così, fa scendere verso il basso la manifestazione dall'alto, anche dalla parte interiore e profonda della luce di HaKadosh Baruch Hu. È un po' come, grosso modo, sì, quel senso di direzione che dicevi prima durante quelle due parole della Shah, che se facciamo, certo, bravo, grosso modo, insomma, è un concetto un po' simile. Assolutamente. Hainu, e cioè, deliyot nishmot Israel shorsham, mibchinat apnimiut afka, visto che la fonte delle anime di Israel è in un livello di HaKadosh Baruch Hu che si chiama pnimiut, e cioè interiore, inimitzadzei yesh vikocham legalot omek pnimit nekudat levavam, shetia itgalut kmo shebipnimit anelemet. ומשום זה, ora spiego, ומשום זה יכולים לעורר את פנימיות ועצמות הרנצו ברוך הוא, היינו לקבל ההשפעה מפנימיות המקיף. Qui ha spiegato ciò che normalmente è nascosto, ne'elam, come alum, no? Be'ilum shem, che significa? Significa così. Visto che l'anima di Am Israel è a fonte, trova la fonte dove? Proprio nella parte interna della luce di HaKadosh Baruch Hu. Di conseguenza, quando risveglia in sé la parte interna, risveglia anche la parte interna della propria fonte. Ok? E quindi possono risvegliare e ricevere il loro flusso di bene, di energia, di luce, eccetera, da l'interno del Makif. Vi ricordate che abbiamo spiegato che Makif, ci sono due aspetti. Makif è quello che circonda, trascende. Sì. Ok. Ma abbiamo spiegato che ci sono due aspetti. C'è un aspetto trascendente proprio che non, per il quale non c'è alcuna differenza tra qualsiasi tipo di esistenza. È tutto considerato davanti, uguale, sì, davanti a questo livello di espressione del divino. Mentre invece poi abbiamo spiegato che c'è anche un livello meno trascendente di Makif, che abbiamo chiamato Pnimiuta Makif, la parte interna del Makif. Cosa significa? Vuol dire, in relazione a ogni livello, la parte bassa del livello superiore a questo è considerato come un makif, perché trascende questo livello, ma non è trascendente totalmente, è trascendente in relazione a questo livello di cui stiamo parlando. Come abbiamo fatto con la catena, uno su uno giù. Bravissimo, sì. Come l'esempio della catena. L'ultimo di sotto e il primo di sopra. Sì. Allora, qui dice che i Bnei Israel si mettono in sintonia con la propria Neshama, con il profondo della propria Neshama, che ha la fonte nel profondo, in parte interiore della luce divina di HaKadosh Baruch Hu infinita, e quindi da lì, da questo Pnimiut HaMakif, dall'interno del Makif, arriva il loro sostentamento, anche materialmente. Per escludere il Makif che trascende totalmente. Se il Makif che trascende totalmente è qualcosa di più esterno, proprio il fatto che trascende totalmente, perché? Perché non entra nell'interno della questione. Sì. E allora cosa stiamo dicendo? Che proprio gli idolatri, proprio quelli che vanno contro la volontà di HaKadosh Baruch Hu, campano, tra virgolette, proprio dall'aspetto più trascendente, che da un lato è più elevato, ma dall'altro è meno coinvolto. Ma quindi... Quindi c'è questo paradosso. Praticamente è come se in quel momento di nostra manifestazione di forza interiore, insomma, che abbiamo detto prima, è come se nella sua continua tendenza verso il ritorno alla propria fonte dell'anima, è come se in quel momento si creasse il collegamento più stretto, riuscisse l'anima a collegarsi alla sua forza originaria che ha dato origine. Esatto. In quella sua tendenza perenne, sempre da che studiamo, diciamo. Sì, ma nell'approfondire in sé, sì, si arriva anche più profondo sopra. Ancora di più? Sì. No, no. No, più vicino alla fonte. Alla fonte, sì. Cioè non è automatico. No, più vicino alla fonte. Non è automatico si può elicitare dal livello della fonte. Bisogna scavare dentro di sé per trovare più profonde nel proprio anima. Abbiamo quella forza, esatto, che abbiamo detto poco fa. Sì, sì. In sì. quel caso, certo. Sì. Davka akum, solo proprio gli idolatri, Cholim Likabel Mibchinat Chitzoniut HaMakif, ricevono il sostentamento loro dalla parte esterna del Makif, Fishe Koli, Kari e Nikatam, Mibchinat Achoraim e Chitzoniut Davka, perché tutta la loro esistenza, tutto il loro nutrimento è da un aspetto esterno. Che a Kadosh Baruch Hu abbiamo fatto l'esempio come qualcuno che deve dare qualcosa ad un altro, ma non lo vuole vedere, non lo vuole guardare in faccia, glielo dà buttando dietro la schiena, ecco, prendi. Come dire, fai quello che vuoi, non mi guardare. Cioè, questo si intende per dire in maniera metaforica il concetto di posteriore, Achoraim, da dietro, le chitzoniut, esterno. Ma quando parliamo delle Neshamot Israel, Aval, Israeli, Karam e Shorsham, la loro fonte, Mibchinat Apnimit, che è da un lato interno, Musham, Hem e Kablim, Ashpatam, e da lì ricevono il loro nutrimento, Veinam e Kablim, Mibchinat Chitzoniut, non ricevono da un aspetto esteriore, Velachen, che Shechotim, è proprio per questo, quando non seguono, quando peccano, quando non seguono la volontà di Hashem, allora mekablim onsham, allora lì vengono appunto puniti, begalut, con attraverso l'esilio, venichnaim, l'umiliazione, eccetera, sottomissione, ace yashuvu el Hashem, finché non ritornano verso HaKadosh Baruch Hu. Veitzaku, come si esprime questo ritorno? In un richiamo, in un pianto, vitzeakap nimit, un pianto è un richiamo interno che viene appositamente meumka deliba, dal profondo del cuore, as meorerim, chinat rachamim rabbim. Allora attraverso questo pianto e questo richiamo dal profondo del cuore fanno risvegliare le grandi misericordie, molte misericordie, mimekora rachamim, dalla fonte della misericordia di HaKadosh Baruch Hu, chinat pnimiut HaMakif, quello che abbiamo già detto prima, che si chiama cabalisticamente l'interno del Makif, la parte interiore del Makif. Ed ecco perché il verso che abbiamo citato già all'inizio del libro di Devarim, che dice ma shigit barech milvavo, la persona si augura in cuor proprio l'emor dicendo shalom yelo, avrò la pace, mi andrà tutto bene, ki bishrilut libi yelech, perché libo yelech, perché la persona andrà secondo quanto sarà guidato dal proprio cuore, quindi dal proprio istinto, la propria volontà base, tutto gli andrà bene, perché gli andrà bene, perché riceverà il sostentamento Yekabel Mechitzon Yuta Makif, dalla parte esterna del Makif, che Moaklipot, come Vesitrachra, come abbiamo detto la buccia, l'altra parte, la parte che è contrapposta alla Kedusha. Shem Magbim et Atzmam, che si innalzano in alto, le Kabel Misham, come Akum le Mata, come gli idolatri qui, Shem Shach, Ribui, Ashba, Misham, Bli Cheshbon, perché dalla parte esterna del Makif, il nutrimento va a un flusso che va senza Cheshbon, senza il calcolo e il resoconto di cui abbiamo già parlato in passato. C'è tutto fatto, tutto aperto, il rubinetto si apre e tutti possono bere. Anche i goyim, anche soprattutto, i miscredenti. Soprattutto. Allora anche l'ebreo che pecca dice, Keni da me benafsho, crederà nella sua mente, liot che moem, dico, vabbè, anch'io campo da questo grande rubinetto aperto. Diventa anche lui. Allora scrive in Yiddish, prima dice, Usheker gamur, questa è una falsità assoluta. Adesso lo dirà. Veino ela rak mashe umat e etatzmo, è la persona che si auto-inganna. Inganna, sì. Ecco, dice, scrive in Yiddish per dare rendere l'idea. Ernarzi chaleinop, si inganna da solo. Vose rechent, il fatto che lui crede, azervet oich mi kabo zain di ashpo fun chitzen samakif, che anche lui può ricevere l'ashpa, cioè il nutrimento. Sì. Ha l'impressione che, ma è sfalsato. È un'impressione, sì, per il momento, può durare, specchi, eh. Come adesso vedremo, che può durare un po' di tempo, e vedremo anche il motivo. Dice che l'Israel, i efshar le kabel ashpa mi mchinat chitzoniut hamakif, che mchinat apnimit e seidri shtashelut. Per Israele è impossibile ricevere il nutrimento dall'esterno del Makif come gli idolatri, solamente è possibile dall'interno del Seder Ishtalshelut, all'ordine della catena che abbiamo spiegato tante volte, dove c'è il Din Vecheshbon, dove c'è tutto calcolato, esatto e chiaro, e merito, demerito, eccetera. Mimeile Behechreach Sheyufsak. È inevitabile che quel nutrimento, che quello crede di ricevere, sarà interrotto a un certo punto. E ora dice, allora ecco perché noi vediamo che molti cattivi, malvagi, sembra che gli va tutto bene, che gli vada tutto bene. E nanuroim bemuchash, noi vediamo chiaramente nella vita. Asher kama reshaim, molti vari malvagi, shematzlichim batechila, che nel loro primo percorso riescono ad avere successo. Ma dopo, veacharkach, nifseket atzlachatam, Veoshram, la loro ricchezza e il loro successo a un certo punto si interrompe. Perché? Che a kol lefi cheshbon, perché alla fine c'è un cheshbon per tutto e per tutti. Allora dice, perché hanno successo all'inizio? Se non funziona tecnicamente, da dove viene? Se i conti si fanno. No? Allora dice, ci sono due motivi. Umash e matzlichim batchila, il fatto che sembra che abbiano successo, almeno inizialmente, ule bete amime, per due motivazioni. A Aleph, il primo, Shezeu al yedei eise asiato va. Dice, tutti hanno fatto qualcosa di bene nella vita. E quel bene non va perso. È riconosciuto come bene, anche se è un malvagio. Meotam sheadam ochel proten balamaseva, che ne chiamano l'amabà. Ci sono delle cose, che c'è scritto nella Mishnah, che la loro ricompensa è presente già in questo mondo e anche nel mondo a venire. Ciao Mauro, grazie. Tranquillo. Adesso mi sembra che non perde. Dacci un'occhiata, poi io vorrei. Ok. Ci riaggiorniamo. Grazie. Buona ciao. Grazie. Ciao. Allora vuol dire, una persona, anche malvagia, ha comunque fatto del bene e questo bene gli viene ripagato. Questa è la prima cosa. Veabet, la seconda motivazione, che è più profonda. Hine nitbaerle, l'abbiamo spiegato in precedenza. Chol zman shelo nevad chelek atov shelo, hare aklipot yonkot al yedei tosefet chayut min haktusha v'unotel chelek barosh. Un malvagio è qualcuno che sistematicamente toglie il bene naturale che c'è dentro di sé. Cioè, nel non seguire l'istinto positivo fa sì che l'istinto negativo abbia la mano forte e piano piano si diminuisce sempre di più la presenza di questo bene che c'è dentro la persona, naturalmente. Ok? Allora lui dice ora, fin quando c'è ancora del bene dentro la persona, non parlo del bene che ha fatto, che era la prima motivazione, fin del bene margine, sì, fisico, non fisicamente, sì, diciamo, sì, interiore nella persona, insomma. Quando c'è ancora positività, allora quella positività è sincronizzata con la Kedushah. Comunque, anche se le sue azioni non lo seguono, aspetta, concludo. Ora, visto che quella positività è in sincronia con la Kedusha, ok? Allora le klipot, cioè tutte sanguisughe, diciamo così, che vanno intorno, ottengono più forza ancora, perché se c'è del bene lì, allora vuol dire c'è ancora una presenza di Kedusha, c'è ancora qualche bene da ottenere, e le klipot succhiano questo bene fin quanto possibile. Ok? E visto che è lui la fonte di questo bene, perché è lui che ha questo bene, questa Kedusha ancora dentro di sé, viene ripagato dalle klipot più, diciamo, prende la prima quando si spartiscono i beni, lui riceve per primo. Ok? Perché è come se lui fosse in un certo fosse senso quelli che hanno il diritto, insomma, la posizione. È come la ragione di che prendere. C'è la sua corte che sta sotto di lui e gli succa tutto. Sì, bravo. Un misenim shachloche ribui ashpab gashmiu. Dice, da questo la persona potrebbe avere molto bene materiale. Però, dice, poi dopo si interrompe questo bene. Vacherkach nifseket ashpa. Quando questi due motivi non sono più validi, allora quella ashpa, quel nutrimento, quel bene, viene interrotto. Venase anniu baliesurim ruchak unabiriot. E capita che la persona diventa in povera e ma questa storia è povero e sofferenza, è separato dalle persone, eccetera. Ma nella Torah è piena di queste storie qua, dei re che hanno fatto, sono diventati re, sono rimasti 2 mesi, un anno, bravo, sono tutti caduti. Bravissimo. È pieno nella Torah. Nel Tanakh, certo. Di questi. Kirov, Asherim, Embale, Midot, Lotovot, dice la maggior parte, o molti, uomini di ricchezza, Ashirim, Ngashir si dice a Roma, dice, hanno delle caratteristiche, dei tratti caratteriali non buoni, e non solo non buoni, ma a volte anche malvagi. Perché? Cosa si intende per tratti caratteriali non buoni? Non si intende uno che ammazza le persone. Be'avat atzmo ve'gassut haruach, egoismo. Gassuta eccessivo ruach. Amore di sé e gassuta ruach, egocentrismo, egoismo, arroganza. E quando sta nella sua ricchezza, quando sta in posizione positiva materialmente, in erabimo ave ashir. Sono molti gli amici del ricco, dice il re Salomone nei proverbi, Shlomo Amelech. Sono molti gli amici del ricco. Anche se la maggior parte di questi amici sanno che è Toshram Yechabdu Velotam, cioè non gli amici, i ricchi stessi sanno che tutti questi loro amici onorano la loro ricchezza e non loro. Avalim ze, ma tuttavia, in ekacha hem mutim b'mahutam, sono proprio presi, come dire, mutim, errano, sbagliano nel credere riguardo il proprio carattere, diciamo. Si ingannano a se stessi, ad asheria isu be'avatam, e con questo traggono una forza di sfacciataggine, di importanza nei propri occhi, che li fa diventare sfacciati nei confronti degli altri, eccetera. Aval kasher ovdim et oshram, ma quando perdono la loro ricchezza, venasimanim, potrebbero diventare poveri. Ase makirim bemaut, allora riconoscono la loro vera, il loro vero carattere. Ammalemi mumei bnei adam, che come tutti gli altri è pieno di difetti umani e problematiche umane. E quindi, visto che questa bella ricchezza comunque alla fine arriva una fine, chi aspali Israele uchinata primit, perché il vero nutrimento verso Israele è da una parte interiore della luce di Akadosh Baruch Hu, che è data, sottomessa a un din vecheshbon, cioè babe din vecheshbon, che viene calcolata e c'è un resoconto, allora la cosa conclude. A meno che ci sono delle eccezioni, dice, che sono ancora peggio. Im lo shehume ele sheneemar aleem, se non che la persona è di quelli riguardo è detto nel libro di Devarim. Um shalem le soneav al panav le avido. Hakadosh Baruch Hu ripaga ai suoi nemici, che vuol dire i suoi nemici, quelli che vanno contro di lui. gli ripaga alla sua faccia, cioè all'evidenza, proprio per distruggere le havido. Cioè, se la persona è così malvagia, non come abbiamo detto prima, che anche il malvagio ha delle cose buone e quindi gli viene dato un po' di credito, se eccetera. Se uno va oltre anche questi limiti. Se uno va oltre anche questi limiti, quindi non c'è nessun bene, non ha nessun merito, allora potrebbe essere ripagato proprio per distruggerlo. Cioè, viene quello che si intende con negatività, gli viene... No, è come se uno viene, come se un re, no? Riempie un nemico di bene per farlo indebolire e poi distruggerlo. Questa è la metafora, cioè viene proprio fino alla fine e poi viene distrutto da di tutti più i mondi. Avrà ancora di più l'illusione di esatto, essere... Esatto, avrà ancora di più l'inganno. Avalim yesh lo eze zchut, ma se la persona ha qualche merito. Ubechlal Yisrael yechashev. E viene considerato tra Israel, tra la comunità di Israel. Yefshar lo sheikabel hashpato b'li cheshbon. Non è possibile che va avanti sempre senza il cheshbon, senza il calcolo. Bensì ki makol ubecheshbon davka mitzad chinat apnimit, sham hu shorsho mekaro, perché la fonte dell'anima è dalla parte interna della luce, e quindi anche il flusso di vita, di sostentamento, di nutrimento viene dalla parte interna di Akadosh Baruch Hu. E quindi, tornando al concetto della tefilà, ecco che la tefilà è il legame della Neshama con HaKadosh Baruch Hu, e quindi la voce è importante non per il volume, ma dimostra l'impegno della persona. Quando appunto la persona si esprime con la grande voce, non che lo fa apposta, ma che vuole esprimere un richiamo del profondo dell'anima, ed è proprio questo che, visto che la fonte della Neshama è legata lì, che fa risvegliare dal profondo di HaKadosh Baruch Hu la risposta. Uno malvagio, voglio dire, non sarà capace di esprimersi con la cosa primit, con la forza del linguaggio. Certo, forte. Avrà più difficoltà. Quello è. Sì. Avrà più difficoltà quello malvagio, ma comunque se scaverà dentro di sé, quindi questa fa parte della Teshuvah, alla fine urlerà. Ma la Teshuvah no? Ci deve arrivare. Ci deve arrivare, però uno ci può arrivare anche in un secondo solo. La rivelazione questa si chiama. Concludiamo qui, riprendiamo se Dio vuole la prossima volta.